Bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends, al microfono il vostro Gianluca. Altre interviste in studio e un grande ritorno a distanza di svariati anni. Sono ritornati dopo alcuni anni i Lore, che dopo molto tempo vengono a presentare il nuovo disco. Un saluto al membro dei Lore che è questa sera ospite e ben ritrovato. Grazie, un saluto a tutti voi. Purtroppo sono da solo, però speriamo di sopperire alla mancanza degli altri. Al solito partiamo con le prime due parti in cui ascolteremo e commenteremo brani rock di formazioni storiche e non del passato. In questo caso avremo un excursus nel rock inglese degli anni 80 e 90. Prima canzone era degli Smiths, dal loro omonimo disco di esordio del 1984 che si intitola This Charming Man. Formazione chiave per la musica inglese che continua ancora oggi ad influenzare le band attuali, forti di una loro personalità intrisa di riferimenti al Regno Unito. Che ne dici? Assolutamente sì, anche perché mi sono preparato sulla scaletta, quindi ecco, bravo. posso dire la mia. E guarda, parlavamo fuori onda un attimo fa appunto di quello che ci ha lasciato l'Inghilterra, di quello che ci sta dando continuamente giorno dopo giorno. The Smiths è uno dei migliori progetti secondo me usciti dall'Inghilterra che amiamo e che ci piace, quindi onore a te per aver scelto questa canzone per cominciare. Eravamo rimasti al precedente disco Intimo Pensiero e nel frattempo ci sono state importanti evoluzioni per la band. Un riassunto degli ultimi anni passati, da quel che leggevo, a rifinire il vostro nuovo sound e a trovare un vostro equilibrio nella lineup. Sicuramente sì, ne sono passate parecchie, potremmo star qui a parlarne per ore. Diciamo semplicemente che qualche vicissitudine di troppo e qualche incomprensione ha portato a una drastica rivoluzione all'interno della band. Siamo rimasti dello zoccolo resistente, storico, ecco. Esatto, siamo rimasti solo io e Matteo, il batterista, e si sono aggiunti un bassista di Udine bravissimo che si chiama Daniele, lo salutiamo, e un nuovo chitarrista veronese, Federico Pilon, da pochissimo con noi, però stiamo già rodando bene, quindi siamo ripartiti e stiamo promuovendo un nostro nuovo progetto, quindi di nuovo in attività e felici di esserlo. E ora la volta agli Echo and the Bunnymen, la band di Ian McCulloch, nota per le sue sonorità dark malinconiche, dal popolare disco Ocean Rain con il brano The Killing Moon. Malinconia e sonorità notturne caratterizzano da sempre il suono degli Echo and the Bunnymen, che a differenza di altre formazioni dell'epoca non ebbero il successo sperato. Che ne dici? Assolutamente sì, e anche perché antesignani sono i Cure e loro secondo me si sono rifatti molto agli Echo and the Bunnymen, ma purtroppo i secondi hanno avuto meno fortuna, anche se non meno talento. Certamente. Avendo un po' perso di vista la vostra band a livello live, vi chiedo come sono andati questi anni e dove so che non avete fatti tanti, ma avete testato comunque le nostre nuove sonorità. Assolutamente sì, perché non ne abbiamo fatti tanti in realtà, perché ci siamo concentrati moltissimo sul lavoro in studio di registrazione del nuovo album di Rabbia e Sole. E molto probabilmente abbiamo lasciato anche un po' perdere la comunicazione di quei pochi live che abbiamo fatto, proprio per concentrare al massimo tutte le energie nella registrazione del nuovo progetto, che visto che hai parlato di nuove sonorità e di nuova formazione, insomma tutto nuovo, la novità grande è stata la firma con un'etichetta importante che è la EMI, una collaborazione con un produttore romano, Gianni Herrera, e la sua etichetta indipendente che ha coprodotto insieme ad Emi il nostro ultimo lavoro, che si chiama One Music, l'etichetta, e quindi ci siamo trasferiti nella capitale per quasi 2 anni fra una cosa e l'altra, perché fra lavoro di sala prove, provini, registrazione e missaggi, che poi lo dirai tu dopo perché siamo andati oltre Manica a missarlo il lavoro in Inghilterra, ci è voluto parecchio tempo. Noi in un anno avevamo praticamente finito tutto, solo che per portare a termine il lavoro ci è servito quasi un altro anno. Per chiudere questa parte ci affidiamo agli House Martins, la band di Kingston Upon Hull, dal disco London Zero Hull One, con il brano Happy Hour. What a good place to be. Don't believe it, 'cause you speak a different language and it's never gonna be all again. Don't believe it, oh no, 'cause it's never gonna be all again. No, it's another night up with a boss, following footsteps overgrown by moss, and he tells me good women grow on trees, and if you catch them right, they will land upon the knees, where they open all the wallets and they close all the minds. Love to buy you all a drink, and as we ask all the questions, and you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it, 'cause you speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it, oh no, 'cause it's never been happy for me. What a good place to be. Don't believe it.